La parola di Dio che sentiamo proclamata solennemente nel sacrificio eucaristico della Santa Messa serve a salvarci e a istruirci nella nostra fede. Se guardiamo il personaggio di Mosè, grande personaggio, colui che ha condotto il popolo di Israele fuori dalla schiavitù d'Egitto, noi vediamo che lui ha sempre avuto un grande rapporto di dialogo con Dio, che poi si chiama preghiera. E questo suo rapporto di dialogo con Dio conosce tutte le sfumature, dalla tristezza quasi alla scoraggiamento, a non capire le azioni di Dio, a non capire le azioni del suo popolo. Conosce però anche il momento della gioia. E oggi abbiamo sentito leggere un brano in cui, al colmo della gioia, Mosè dice: fammi conoscere la tua gloria, fammi vedere il tuo volto, Signore. Fammi vedere chi sei. Che bella preghiera, amici. Io mi auguro che anche noi, assieme agli altri momenti di dolore, di tristezza, di fatica, possiamo avere alcuni momenti personali in cui sentiamo la gioia del Signore e gli diciamo: come mi piacerebbe vedere il tuo volto, Signore. Come mi piacerebbe conoscerti dall'intimo. La risposta di Dio è bellissima ed è usa un modo figurato di esprimersi. Dici: no, non puoi vedermi e restare vivo, perché chi vede me poi non ce la fa più a vivere su questa terra, non ce la fa più, perché dice: troppo bello stare col Signore. Però non ti mostrerò il mio volto, ma in senso figurato gli dice: passerò davanti a te e tu mi vedrai dalle spalle. Anche questa è una prospettiva non piccola. Tante volte anche noi possiamo riconoscere una persona dalle spalle, da come cammina, dal suo portamento, dalla statura, da come si muove. E poi, per non lasciare senza risposta il suo servo, gli dice chi è, come se fosse una visione, diciamo, interiore, non un viso. D'altra parte Dio non ha viso. Il Signore, Dio misericordioso e pietoso. Che bella definizione, amici. Misericordia è una parola ricchissima di significati. Una delle etimologie può dire misericordare, misericordia. Al misero il cuore dare. Dio è misericordioso perché a noi miseri ci dona il suo cuore. Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Non credete a coloro che vi parlano di Dio come un castigamatti. Si usa anche nel linguaggio: l'ira di Dio. Non è un linguaggio biblico questo, anche se sta scritto, ma non vuol dire che il Signore... Ma come fa il Signore a disprezzare, a odiare l'opera delle sue mani? Una pagina molto bella di Isaia dice: può forse una madre dimenticare il figlio delle sue viscere? Così sono io, dice Dio, ti porto sempre nelle mie mani. Dio misericordioso e pietoso, ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni. Uno degli attributi più belli dell'amore credo che sia la fedeltà. Dio non ti dimentica. Questo è il volto di Dio. Fammi vedere la tua gloria, fammi vedere il tuo volto, Signore. Ed è un primo passo. Ma da quando Gesù è venuto sulla terra, noi sì che possiamo vedere il volto di Dio. Ha preso carne in Gesù. E allora il cristiano che vuole conoscere il volto di Dio deve diventare uno scrutatore di Gesù. Deve diventare un conoscitore di Gesù, lasciatemi usare una parola umana, della sua persona e della sua personalità. Amici, quante volte noi arriviamo a scrutare la personalità di Gesù? Occorre fare una preghiera silenziosa, personale, prolungata, stare faccia a faccia col Signore, altrimenti non conosceremo mai chi è Gesù e ci lasceremo andare a tante affermazioni sciocche. Ma io non capisco il Signore, se fosse giusto, dovrebbe fare. Amici, ci manca questo scrutare il volto di Dio, che è Gesù. Terzo passo. Mentre meditavo queste parole e le gustavo dentro di me per trasmetterle a voi, perché non invento nulla al momento, ma le ho meditate, mi piace predicare a voi perché prima le gusto per me stesso. Mi è venuto prepotentemente in mente una strofa di un canto di un grande cantautore cristiano contemporaneo, Claudio Chieffo, che dice: io vorrei vedere Dio, vorrei vedere Dio, ma non è possibile. Ha la faccia che tu hai, il volto che tu hai, è per me terribile. E gli artisti con due parole ti sanno svelare un mondo. Il volto di Dio, dopo che Gesù si è fatto uomo e ha detto tutto quello che farete al più piccolo lo considero fatto a me stesso, il volto di Dio è il volto del fratello. E questo ci è terribile. Perché guardare in faccia il Padre misericordioso, guardare Gesù, cioè, ma guardare il tuo fratello, quello che non ti soddisfa, quello che ti attacca, quello che ti delude, quello è per me terribile. Capire che nonostante tutto, io una volta ho goduto per un istante profondamente nel mio cuore pensando questo pensiero, com'è difficile capirci tra varie religioni. Ognuno ha la sua visuale e quando poi in nome di una religione ti fanno terrorismo, in nome di Dio proclamano una guerra santa, io mi ci perdo. Ma poi mi è venuto in mente che tutte le religioni, certo non se fanno terrorismo, ma se restano fedeli alla radice della loro religione, io domani li troverò in paradiso con me. Ha la faccia che tu hai, il volto che tu hai, è per me terribile oggi, ma allora dicevo, Signore, se domani tu mi regalerai il paradiso con tante persone conosciute e sconosciute con cui non riesco a intendermi oggi, ti prego, comincia a educarmi, comincia a cambiare il mio sguardo affinché io possa domani in paradiso non essere meravigliato di essere faccia a faccia col volto di Dio che ha tutti i colori della pelle, che ha tutte le lingue del mondo, che ha tutti i caratteri somatici del mondo, il volto di Dio nel fratello.